qualcuno mi sente? Ti sento, so. Va bene. Che sono stati lì, non sono stati. E di chi sono? Aspetta, ho avuto l'infermità, dove si fa? Dove si fa? Aspetta. Dico direttamente all'infermiere. Casale! Sono qua. Vabbè, come? C'è qualcuno qua? Cosa vuol dire sono qua? Sono qua, sono sul 10 con Luca. Flipper. Beh, è attivo al telefono. No, no, non è attivo ancora. Mi dà le notifiche ma non me le fa vedere. Come mai? Devo aspettare che ti attivino la scheda. Sì, perché sto cambiando compagnia e sto facendo tutto nuovo. Ho capito. Sei un ziguglione tu, cazzo di... Cazzo, bago 25 euro, c'ho tutto limitato però, eh. Se non ho capito, io bago 14,95 euro il telefonino. Non ho capito. Spera un attimino, ho fatto un casino al cane, aspetta. Pronto, mi dica, posso? Sto valutando... Metti se posso fare il bagno... ...dell'opice e anche del collo. È proprio gonfio, è proprio... ...come un tessuto, l'enfisema sottocutaneo. Ci sono... Casino il cane, vaffanculo. La marina ha cagato. Cosa, Lu? Ho detto il cane, mi ha fatto un casino, perché si è mangiato la papale di marina. Che non deve mangiare, infatti tu mi hanno detto di non dargli... Aspetta, di non dargli altra roba, perché la fa diarrea. Mi ha fatto un casino, mi ha fatto in camera da letto. Va a fare una pulizia. Ma esci da tua madre? No, da marina. Ma è vero che c'era anche Marina al cane. E non è rare, no? No, stai attento che non mangi altra roba, sarà un casino. Era in terra, quella di Stella si è mangiato. E purtroppo Marina mi ha detto che tra che ogni tanto va a mangiare. Devo stare attento. Si te la stavo chiamando io, no? Perché era in terra vicino a me, vicino al divano. La chiamavo, non veniva, pensavo fosse con Marina, perché l'ho sdraiato. E non te la c'è più in cucina, ma non è in maniera di Stella. Faceva un po' la pancia gonfia, duretta la pancia, no? Mi ha fatto la diarrea. Beh, normale, poi il cane è così piccolino. Beh, infatti vai sul casa, che ha pigliato un goip, ha pigliato. Sì, vabbè, devi segnare da piccolo che no, queste cose non si fanno, però purtroppo è successo anche al mio una volta. Non ce l'ha fatta trattenere, me ne sono accorto che non stava bene. Ho messo subito il guinzaglio, l'ho portato e... Cazzo, me l'ha fatta nell'ascensore, tutto pulito, disinfettato, se vuoi va. Beh, Claudio. Chi è che ha salutato? Ce l'hai il baracchino lì, Lu? Ah, Lu. Sì, che ce l'ho, però c'è freddo. Ah, un po' di freddo c'è. C'è freddo sì e poi sta di nuovo piovendo, qua sta piovendo. Claudio. Ho detto chi è che ha salutato. Ah, non lo sapevo sentito. Ciao Claudio, Franco. Ciao Fra, non ti tendo più io a te, non capisco perché, se dipende da me e da te, buh. Sì. Ti sento basso, senza segnale, senza niente, buh, non lo so. Ehi, mi ascolti adesso? Sì, un po' meglio. Ehi, cappa, dai. Vabbè, stavo usando il portatile. Ah, vabbè, stavo usando il portatile e ti ho sentito lo stesso, allora già va bene. Ehi, com'è questa la radio? Bene sta uscendo, lo Cla? Sì, perfetto. Tu bene mi senti di radio? Sì, sì, di radio sì. Senza segnale sì, però già va bene. Sì, anche tu. Uno arrivi, la radio già va bene. E io sto usando il 60, beh. Cappa. Oh, io sto usando un microfono quelli da musica e col pedale. Ce l'ho anche io, una rottura di balle, sto cavo per terra, poi me lo mangio il cane. Ce l'ho anch'io il pedale è anche molto bello, molto bello. Me l'aveva regalato un radiomattore nuovo nuovo, c'è anche il connettore attaccato, però non lo uso perché non lo posso lasciare per terra, capito? Senza Filippo me lo ruzzeggeggia. No, io me l'ho comprato perché... Sì, ehi, Efra, già ce l'ho lineare anche per qua, vedi tu, anche per le VHF ce l'ho, ma è tutto dentro l'armadio. Fate bene, buon proseguimento, ciao. Ciao, vedi tu, ciao. Mi manca giù un lineare, no, siamo a Puglia. Ciao, va bene. E tanto, Fra, cosa mi racconti? Io cosa ti devo raccontare? Niente, mi sono rientrato pochi minuti, sto qua stasera, infatti non c'era nessuno e mi sono messo al computer, e niente, adesso sentito a te. C'è anche Luca, non Luca Flippere, sta facendo cosa, l'altro Luca, non so se lo senti. No, negativo, non lo sento per niente, ma neanche a Vittorio, chi era? Vittorio Giove, non lo sento neanche a lui. Sì, era lui, era lui. No, è il laboratorio, c'è il portatile, non siamo vicini, mi arriva a me. Ah, allora è per quello. Perché non lo sentivo per niente? Niente. Serviva sempre solo con la sicuramente sta uscendo da qualche altro posto, non è da casa sua. No, no, è dalla ragazza. E se parlava a casa sua, Vittorio, ti saboteggia la radio, che se arrivi poco voglia. lui sì. E poi è su al Monte Alto, quindi ce l'hai proprio davanti. Capo, no, ma quando parla anche 27 non aspetto bene. Vedete che... non immaginate che non era con l'antenna? No, col portatilino al lavoro, ce l'ha sempre acceso. Ogni tanto entra a salutarci, meno male, che non è come gli altri radioamatori, che fanno solo attività amatoriale. Vabbè, oh, si divertono così. Allora perché l'hanno presa la patente? Per il numero. No, fa girare il guglione all'altri. Ehi, eccomi qua. No, stavo combattendo con quella tipa dei soldi. 35 euro sono 35 euro, alla fine mi servono più a me che a Edda, a me dietro non me la fonda. Il discorso dice che lei ha avuto un problema col telefono, non la faceva rispondere, non so che cosa, da settimana in settimana rimandando, e alla fine mi sento preso per il culo. Cazzo, tu conta, gli ho fatto la ricarica il 27 di settembre, quasi 2 mesi sono passati e devo ancora aspettare. Lui non è passato manco un mese, 27 di settembre ne avevamo 14, 15 di ottobre, quindi al 27 ottobre è un mese. Ah, vabbè, infatti è vero, un mese, non 2 mesi. No, aspetta, ma non gliel'ho fatta, aspetta un attimino. Se l'hai fatta il 27 settembre non è neanche un mese da giudito. Manco un mese, sono 15 di 17 di so, quindi. Aspetta che controllo bene. Se l'hai fatta il 27 settembre, al 27 ottobre è un mese, siccome ne abbiamo 15 oggi o 16. Sono 12 giorni, 17 giorni. Il comando l'ho fatta, aspetta. Con Franco, di sorso, ma non ti sente. Sodio cloruro. Cos'è, Cla? Ho detto Luca, mi ha detto con chi sto parlando, laggiù tu con Franco, ma non ti sente. No, Cla, allora. Non lo sento, no. Mi spiace, non so se lui mi ascolta, Sì, io lo ascolto, a Puglia. L'ho fatta il 27 agosto, perciò sono quasi 2 mesi. 27 agosto sì, 27 agosto, 27 settembre, al 27 ottobre fai 2 mesi, è certo che sì, un mese e mezzo già è passato. Ma infatti sono 2 mesi quasi, 2 mesi, da agosto ad adesso quasi 2 mesi. Tu già vuoi dire, al 27 ottobre fai 2 mesi, ancora non so 2 mesi, è un mese e mezzo, capito, un mese e 15 giorni, quindi, e cosa ti ha detto, te le rimborsa o non te le rimborsa questi soldi? C'ho la registrazione, mi. No, cioè, ma c'è ragione, ma pure se fossero state anche 10 euro, cioè adesso come adesso anche 10 euro ti fanno conto. Cioè, beh, pure vado all'autista, ma non come lo rivecco. Vabbè, non la fare sentire la registrazione, non si può fare. Vabbè, vedi tu Lu, se te li dà, cioè se te li rimborsa, fate rimborsare, più in fretta possibile. Va bene. Fra, se vuoi andare al 10, io ho il 10 acceso. Vabbè, ma no, sto riuscendo, classe. Mollo, intanto. Ehi. Va bene, c'ho il 10 e il 23 acceso. Tutte e due. L'altra al 4.30 in 40 metri. Va bene, Fra, sono qua, non c'è problema. Fra 10 minuti devo uscire, intanto. Non è che devo rimanere, se no l'avrei acceso la radio l'altro. Ia, va bene. È come se adesso una persona che conosci ti deve dare dei soldi e ti fa passare la settimana, settimana, tu cosa fai? Ci sono le balle, penso, no? Penso proprio che andò a pigliare miri. Poi lei vive anche a Olbia, si va a Olbia, si rimonga in benzina e si dirà, va, per carità. Poi dice, il tipo, non so, li siamo già rimborsati, insomma, ma allora quello che dico io è, lei continua a vendere questa roba continua, perché te l'ho bruciato, cazzo, c'è qualcosa sotto qua, per forza, non esiste, lei ci ha provato, e visto che gli è andata male, e lei continua a provarci. Ciao Fra, ci sentiamo. Ascolta Lu, se vuoi andare a Olbia, io problemi non ne ho, capito? Chiamiamo a Stefano, andiamo a trovare a Stefano, una mattina, dimmi quando, non ce n'è problema, e io ti porto a Olbia, capito? Senza nessun problema, sappilo, quando tu vuoi andare a Olbia, ti metti d'accordo, ti ascolta, domani vengo a Olbia, prepara i soldi, e andiamo a Olbia. Chiamo Stefano, ci prendiamo un caffè con Stefano, ci facciamo due chiacchiere e poi ce ne rientriamo. Ma non la voglio manco vedere, Cla. Non la voglio manco vedere, per carità. Beh, come vuoi, io sono disponibile. Se le vuoi recuperare, subito burumi. Pure domani, non ve n'è problema. Me lo dici e andiamo a Olbia. Vabbè, tu, cioè, Simone di Gasolio, ma lascia perdere, va. Sono stati di più tanto quanto. Però so, due citti, non so, due citti, però servini là, servini. Cazzo, a chi la salietta? Ma la salietta mi ritengo pa' comparare cosa all'Umagna Afghani, tutte le cose che servini. Non ti preoccupare di quello che devo fare io, se devo mettere il gasolio, se... Tu non ti preoccupare, io ti ho detto che ti accompagno a Olbia, ti porto a Olbia a recuperarti i tuoi soldi. Poi di quello che faccio io tu a futti dinni. Ok, te la posso fare una cortesia come tu le fai a me. Allora, tu mettiti d'accordo. Se vedi che lei tarda, ti metti d'accordo. Ascolta, adesso mi sono rotto le balle. Domani vengo a Olbia. A me mi avvisi dalla sera e noi andiamo a Olbia la mattina. Capito? Andiamo a trovare a Stefano, prendiamo anche a Olbia e poi ce ne rientriamo. Non ce n'è problema. Oppure se andiamo presto, secondo l'appuntamento che tira, ce ne torniamo. Capite? Se no ad in tempo non ve n'è problema. Cortezza tutta la via Olbia, però le dinane nel reghido. Lo dico io. Ah, c'è troppo tempo. Ma poi tante cose ci sono qua, perché quelle scarpe lì, anche contraffatte, costano una cinquantina di euro, 60, capito? E devono farti pagare 35 euro, 35 più 2 di commissione sono 37 euro. E mi ho sentito un po' la puttana, l'ho sentita la verità. Adesso lei non sa da che parte uscirne, che l'hanno bruciata, qua e là, bim bom, bim bum. E chi su, Non sa da dove uscirne adesso. Però come cascata male? Cioè la verità ha detto, ma vabbè, va, si rabbia in luce del 35 euro. Però ho detto, perché deve vincere lì? Sono di me, chi si? Cazzo, ma di non passi, va, 35 euro. Cazzo, ma tu sei pazzo, Se fossero state 5 euro, mamma mia di... Capito? Ma è l'azione, io 35 non te le lascio. Quindi, ti ho detto che io da Globo sono andato, ho preso le Recovery, volevo prendermi anch'io le Superstar, anzi le Star Smith. Poi ho visto Recovery molto belle, tipo le Star Smith, però senza queste righe mi piacevano di più. Cazzo, erano 65 euro, le ho pagate la metà. Ho visto le Superstar che costavano 72 euro, e costavano 45 euro, capito? Con lo sconto del 30%, quindi alla fin fine aggiungevi 10 euro in più e te le prendevi qua. Ah, guarda, alla fine quello che voglio io costano 100 euro qua. Infatti mi aggiungo la differenza e me li compro qua. 72 costano da Global Superstar, guarda, ero curiraria e originali, no contraffatti. Capito? Io mi sono preso gli altri che mi piacciono di più, perché ce li ho tipo le Star Smith dell'Adidas, capito? Però sono di Adora. E allora gli dico, per essere uguali, ma le compro diverse. Molto belle. Però ti sto dicendo, 72 euro le Superstar costava. Più c'era lo sconto del 30%. Quindi, alla fine, ti ho detto, vabbè, io ti sto dicendo, tu decidi, decidimi. Ah va, decidi, che ando voi, andiamo, mi lo dì a me e noi andiamo a Urbia. Adesso aspetto, vediamo un po'. Non la vogliamo cuvidic, là, va, per carità. Mi presento io, non è problema, non c'è problemi. No, ma già la conosco, cazzo, non curo la conosco, va. La conosco e come? Ma se la conosci, qual è il tuo problema, Lu? Boh, non so cosa si dimentichi, non la voglio vedere. I soldi ti deve dare, cazzo non voglio vedere. Oh, non lo so così stai di nata lampà. Io solo per l'azione, anche se erano 10 euro, non me ne affutti nulla. Mi sarei seduto in macchina, sarei andato e me li avrei presi, capito? Ma avrei preso un caffè Olbia con quei soldi, un pacchetto di cigarette e me ne sarei rientrato, però a te non te li lascio i soldi. Adesso vediamo, aspettiamo a lunedì, mi ha detto, lunedì o martedì. Perché cazzo va, veramente, mi ha rotto le balle. Ma visto là, ti ha rotto le balle, però non vuoi andare. Io ti sto dicendo, te lo ripeto, non te lo dico più. Se lunedì o martedì non ti arrivano i soldi, tu ti metti d'accordo e dici, ascolta, siccome ti vedo un po' tente, io domani con un mio carissimo amico vengo a Olbia, capito? E vengo a prendermi i soldi, quindi organizzati, perché io non me ne vado da Olbia senza i soldi, punto. Eh beh, certo, adesso aspettiamo la prossima settimana, mi ha trovato le scuse che, vabbè, non c'era WhatsApp, se te l'avrei fatto sentire. Comunque mi ha trovato le scuse, che c'era il telefono, non faceva rispondere, va. Ho chiamato la telefonata dal telefono di casa, da mamma. L'ho chiamata dal telefono di Maria e non ha risposto. Gioia. E allora non è in buona fede, è in mala fede, a tutti i dì. Quindi, siccome uno è in mala fede, noi le facciamo la sorpresina lì, capito? Andiamo e ci facciamo la risulta. Non ce n'è problema. Ti accompagno io, Olbia, tu non ti preoccupare di chi ci devo fare io. Non problema. Così andiamo a trovare a Stefano. Andiamo in mattinata e torniamo in mattinata, non ti preoccupare, non ci ho goduto via Olbia. Ci vuole un'ora andare e un'ora tornare, neanche, quindi. Sì, ai, ai. Se c'è un problema anche con questo cagnolino, che cazzo me lo tiene? Bisogna ragazzi pure un cane appresso, un casino qua. Questo cane mi sta un po' mettendo in disagio, un po' un bel. Non lo dire a me, non lo dire a me, tu ce l'hai piccolo. Capito? Io ce l'ho grande, sta mettendo in difficoltà a me, che tutte le mattine vuole andare, vuole uscire, sta andando e tornando per le stanze. Stamattina Anna stava pulendo, l'ha trovato sopra il letto, quindi adesso dobbiamo chiudere anche le stanze. È un casino, era abituato in campagna lui, a correre, a fare, e ogni volta viene qua, almeno per un mesetto, calzi così, poi si rassegna, perché non le piace stare a casa, capito? Quindi, ci portiamo anche il cane, Luca. Ci portiamo anche il cane, non è un problema, sta giù di tutto, dopone di raccolto. E poi noi andiamo a Olbia, con Rugani, con la Iatta, con Rugosio, con l'elefante, però andiamo a Olbia. Come fa a sapere che ce l'ho piccolo e tu ce l'hai grande, boh? Cosa? Ho detto, come fa a sapere che tu ce l'hai grande e io ce l'ho piccolo? Boh, ho tirato così a indovinare. No, ma io c'ho il cane grande, mi. La cedda ce l'ho piccola piccola. Ui, ui, è cura noi. Chi è? Ah, Giulio c'è, io vado sul 10. Ehi, ma rientro dopo, dai, là, che sono qua in soggiorno adesso, aspetta Marina. Ehi, va bene, già è acceso qua. Così dico, gaba. Ci siamo. Claudio. Vorrei sapere se hanno versato diuresi di... 10. No, che fa cambiare stilo qui, se cambiava noi. Vai, vai. E aspetta che un po' complessa la cosa, ma non dovrei tardare. Che segnale c'ho adesso? Cosa, Vittu? Che segnale c'ho adesso? Uno adesso, sì. Segnale uno, Vittu. Uno. E adesso ha cambiato sempre uno? No, sempre uno, Vittu. Non è stata avversata. Mi hai sentito ora? Sì. Il laboratorio, Giulio, no, sicuramente non lo senti. Sei in laboratorio, Vittu, no? Sì, sì, in laboratorio, laboratorio. Perché Giulio non ti sente ai punti. Va bene, sempre uno, con tutte e due antenne, segnale uno, segnale uno. Ok. Sì, se ti avvicini. Sì, ti sento. È l'unica cosa buona, c'è altro po' cos'è che vai, Luca? Flipper, cos'è che vai? A 12, sì, più 2 a 51. Pronto Valentino, senti pa. Pronto Valentino, mi sta facendo.